campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 17 novembre, il sole in regione sorto alle 7.10 e tramonterà alle 16.34. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Sebastiano Franco. Sempre più allevatori trasformano in aziende il loro latte, dando vita ad una piccola rivoluzione casearia che da un lato accorcia la filiera e assicura loro parte del valore aggiunto, mentre dall'altra modifica le produzioni, sempre più attente alla richiesta del consumatore finale. È il tema dell'apertura di oggi, mentre il corsivo di Enos Costantini ci fa capire come dai nostri piccoli mondi antichi, che custodiamo nella memoria, possiamo trarre insegnamenti di stile per l'oggi. Per la rubrica delle normative, un argomento oltremodo tecnico relativo alle nuove disposizioni per lo spargimento dei liquami in agricoltura, a seguire un'altra puntata sull'olivicoltura in regione concentrata negli anni Ottanta, quando l'ennesima ondata di gelo mise di nuovo a rischio piante e produttori. Per la rubrica dei giardini, oggi i riflettori accesi sul parco Revoltella Trieste, mentre per lo spazio che dedichiamo al fertilizzante per antonomasia, il letame, l'analisi storica si concentra sui territori di pianura. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana prossima e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Anche non tanto silenziosa è in atto una piccola rivoluzione nel settore caseario del Friuli Venezia Giulia. Sempre più allevatori trasformano in azienda tutto o in parte il latte che producono per arrivare a dei formaggi da offrire direttamente al consumatore finale, saltando così uno o più segmenti della filiera commerciale che erodono il guadagno. Ne parliamo con Fabiano Simsig dell'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto, che nuovi formaggi abbiamo? Beh, diciamo che questo appunto è un fenomeno piuttosto recente, in quanto diversi allevatori appunto cercano di raggiungere direttamente il consumatore finale, quindi trasformano il proprio latte in azienda. Naturalmente raggiungendo direttamente il consumatore finale attraverso i propri punti vendita o attraverso i mercati, devono produrre i formaggi che vengono richiesti direttamente da loro. Quindi tendenzialmente, oltre ai nostri tradizionali formaggi latteria, producono anche formaggi freschi tipo stracchini o tipo mozzarelle o paste filate, che al momento sono quelli che spesso sono più richiesti dal consumatore al momento dell'acquisto. Latteria, inteso sia come tipo di formaggio che come fabbrica di formaggio, addio quindi. Ma io mi auguro di no, è chiaro che non sono più i tempi degli anni 60 o anni 70 in cui c'erano oltre 600 latterie, e se pensiamo che in Friuli Venezia Giulia ci sono 250 comuni, quindi vuol dire che c'era proprio un caseificio ad ogni campanile. Ora sono rimaste circa una cinquantina, ma tenendo conto che la produzione di latte è più o meno rimasta invariata, io credo che il nostro formaggio latteria e il Montasio possano ancora considerarsi come prodotti, diciamo così, di punta della nostra regione. E i prezzi tengono? Per chi produce, vendere all'ingrosso è un po' un problema, proprio per questo dicevamo che molti allevatori autonomamente producono e vendono il formaggio. Però anche le latterie, nello stesso modo, cercano comunque attraverso i loro punti vendita di raggiungere direttamente il consumatore finale, quindi cercano in tutti i modi di rimanere sul mercato in modo positivo. Possiamo dire che questa nuova tendenza arriva dall'esperienza delle malghe, che stanno ottenendo sempre più consensi. Certo, le malghe sono strutturate proprio in questo modo, quindi c'è il malghese che produce il latte e poi lo trasforma in formaggio. Chiaramente la montagna è anche un ambiente dove, diciamo così, da un punto di vista turistico è molto apprezzato, e anche la regione stessa in questi ultimi anni sta cercando di mettere, diciamo, in prima linea i prodotti di malga, che sono dei prodotti assolutamente, da un punto di vista nutrizionale, molto apprezzati e molto buoni in questo senso. Buono l'exploit anche ultimamente del settore ovo-caprino. Sì, bisogna dire che a differenza del settore bovino, dove le aziende sono strutturate ormai da anni e sono, diciamo così, ereditate da generazioni, nel mondo dei caprini abbiamo anche la nascita di nuove aziende legate a persone che sono appassionate al settore, che provengono anche da settori diversi e che decidono di avviare questa avventura allevando le capre e trasformando anche direttamente il latte nei loro caseifici aziendali. Prima avevamo accennato alle latterie. Si è persa quella socialità che le latterie davano in ogni paese, in ogni frazione? Quello purtroppo sì, anche perché nonostante adesso ci siano ancora delle latterie, diciamo così, la consegna del latte non avviene più come un tempo. Ormai comunque ci sono i camion di raccolta che provvedono alla raccolta nelle aziende e alla consegna del latte in caseificio. Un tempo invece la latteria era veramente un luogo di aggregazione e di incontro fra tutte le persone del paese, anche perché diciamo così che ogni famiglia aveva almeno 2, 3 o 4 vacche, e quindi alla fine si ritrovavano tutti la mattina e la sera in caseificio e lì praticamente vivevano dei rapporti di ogni genere. Tempi andati. Rimangono solo alcune piccole latterie dove ci rimane ancora, diciamo, questa modalità di consegna del latte, per cui rimane all'interno del paese una certa socialità dovuta anche a questo tipo di allevamento. I piccoli mondi antichi che tutti più o meno custodiamo nei nostri ricordi possono trasformarsi in tanti moniti sulla qualità della nostra vita. Enos Costantini ci fa un esempio. Fino a pochi anni addietro, come ti inoltravi nella frequentata piazza di Surisins di sopra, sentivi l'unico grido di guerra noto ai friulani: «Anin bevi un tai». Al che, per non dare un disdicevole esempio di maleducazione, non ti restava che rispondere: «Po ben, anin». Davanti a un tai e anche due si dialogava sopra i massimi sistemi, si parlava male dei politici, si tiravano giù le tonache al vicinato, si scambiavano informazioni ed esperienze, si davano consigli, si chiedevano consigli, si rammentavano fatti di gioventù e perfino si firmavano contratti. E si sapeva di campi, vacche, latte, patate, letami e lettimi, trattori, prezzi e costi, si commentava vita nei campi, si vantavano pannocchie lunghe per qua e lattazioni al di sopra della media. E chi non era contadino sapeva tutto della filiera corta, cioè del suo cibo, anche se non aveva mai udito questa espressione. Insomma, il paese a 360 gradi, che è una comunità, non è un angolo alterno interno. Sarà che abbiamo cambiato di secolo, ma ora la piazza è sempre deserta, eccezion fatta per qualche cane con signora al guinzaglio. Entrambi disinteressati al grido di guerra sopra menzionato. L'osteria, che faceva anche le trippe, è diventata prima American Bar, con pessimi tramezzini, e ora è Enoteca, con tramezzini sempre pessimi. Il vino è più caro e più alcolico, ma il peggio è che il Thai lo chiamano calice, e già questo ti toglie metà del piacere. Amici, parenti e conoscenti stanno sui social invece che coltivare l'orto e bere un tai in compagnia. L'amico Giovannino, in compenso, compulsa in continuazione TripAdvisor per sapere dove andare a fotografare il frico. Ogni tanto, all'Enoteca con Bianchi Gelidi, un tempo osteria con trippe calde, compare Tony Baiut, uno che tiene due vacche per compagnia e non ha nessun monitor. La leggenda vuole che un iPhone regalatogli dalla nipote commercialista sia inavvertitamente scivolato a terra su una lontana braida proprio prima dell'aratura. Le mani screpolate di Tony Baiut sono un film horror per l'efebico Costello del calice, che sembra tirare un sospiro di sollievo quando viene finalmente liberato per essere raccolto da una cameriera con disgustosi tatuaggi sull'avambraccio. È quello il momento in cui Tony Baiut aggrotta la grinzosa fronte. Lascia che un luccichio appena avvertibile gli illimpidisca lo sguardo. Così guarda l'ombra del campanile che si allunga nera e fredda sulla piazza deserta. Fa una smorfia da reflusso gastroesofageo e mormora sommesso: «Una volta da qui guardavo la vita». La direttiva nitrati e le norme che la recepiscono regolano in modo molto restrittivo la distribuzione di fertilizzanti azotati. Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, ci illustra le ultime novità in materia. Per contenere l'inquinamento delle falde acquifere dai nitrati sono stabiliti limiti alla distribuzione di tutti i fertilizzanti azotati nelle zone cosiddette vulnerabili, cioè l'alta e la bassa pianura udinese, oltre al comune di Montereale Valcellina nella destra Tagliamento. Fino alla scorsa settimana il regolamento regionale imponeva il divieto assoluto dal 1 novembre fino al 31 gennaio per concimi minerali, letami, liquami, se distribuiti su terreni destinati a prati, con colture legnose, con inerbimento permanente o cereali autunno-vernini. Il divieto però si estendeva fino al 28 febbraio nel caso di deiezioni di avicunicoli essiccate o per liquami distribuiti su terreni destinati a colture diverse, comprese quelle primaverili estive come il mais o le orticole. Però in passato spesso ci sono state deroghe. Ci sono annate, come quella corrente, nelle quali le condizioni meteo o il semplice ritardo nella raccolta di alcune colture, soprattutto soia e mais, non consentono di preparare i terreni per le semine e distribuire i fertilizzanti nel mese di ottobre. Questo diventa un problema enorme per le aziende con allevamento, che si trovano con le concimaie o le vasche dei liquami piene proprio nel momento in cui inizia il periodo di divieto. Per garantire all'agricoltore maggiore elasticità nei tempi di distribuzione dei fertilizzanti azotati, da quest'anno i periodi di divieto non saranno più rigidi, bensì variabili in funzione delle condizioni meteorologiche. Quindi, fermo restando il divieto assoluto di distribuzione nei mesi di dicembre e gennaio, negli altri mesi, cioè novembre e febbraio, i giorni di divieto e di permesso saranno individuati zona per zona da bollettini diffusi 3 volte alla settimana dall'OSMER. Da venerdì scorso questi bollettini sono reperibili sul sito web www.osmer.fvg.it e, così ci hanno riferito i tecnici, potranno essere anche inviati via mail o su WhatsApp a quanti ne faranno richiesta. Altre raccomandazioni? Naturalmente il bollettino si basa su previsioni a breve che, per quanto affidabili, hanno pur sempre una certa probabilità di errore. Pertanto l'agricoltore deve essere consapevole che, in ogni caso, è vietato intervenire su terreni gelati, nevati, saturi d'acqua, nei giorni di pioggia e in quelli successivi a piogge di oltre 10 mm registrate nella stazione meteo della rete regionale più vicina all'azienda. Attenzione che da venerdì il bollettino diventa vincolante e chi non rispetta i divieti commette una violazione al codice ambientale. Di freddo in freddo, una delle ultime annate gelide esiziale per gli olivi in Friuli Venezia Giulia è stata quella del 1985, che ancora una volta ha messo a rischio la sopravvivenza non solo delle piante ma dell'intera olivocoltura in regione. Ce ne parla Ennio Scarbolo. Inizia nel 1984 con l'aiuto dell'Ispettorato Agrario di Trieste. 4 aziende del territorio, Stare, Cotta, Sancin e Parovel, effettuarono diversi impianti in località Monte Cielo, in comune di San Rodrigo. Piantarono soprattutto varietà toscane, Lecino, Maurino, Pendolino, Frantoio, pochissima bianchera. Questo perché, essendo una varietà autoctona, non era possibile reperire diastone di olivo sul mercato. In poche parole si poteva solamente ordinarle, ossia raccogliere le masse per gli innesti o per la talea e affidarle ad un vivaista di fuori regione, in Toscana a Pescia. Per la moltiplicazione è da aspettare oltre 3 anni per l'impianto. Intanto fine 84, inizio anno 85, ci fu un periodo di circa 15 giorni di freddo intenso, temperature minime di circa meno 14 e massime di meno 4 o meno 8 nella zona di Trieste, che fecero morire tutte le giovani piante di olivo e fece molti danni a quelle meno giovani, tanto da compromettere seriamente le produzioni di olive per diversi anni. Questa ondata di freddo ci fu in tutto il centro nord Italia, compromettendo tutte le coltivazioni di olivo, mettendo in ginocchio l'intero comparto olivo, olio, vivaismo per diversi anni. Con tutta sicurezza posso affermare che alla fine degli anni 80 e inizio degli anni 90 la coltura dell'olivo era presente solo in provincia di Trieste, nella zona di San Rodrigo della Valle e in comune di Muggia, in costiera fino a Duino Resina. Naturalmente qualche pianta sparsa anche sul Carso, Triestino e Goriziano, a riparo dei freddi intensi invernali. La coltura era in consociazione con la vite e orti familiari, in filare e non in impianti specializzati. Nel resto della regione solo piante sparse sul Coglio, sui colli orientali del Friuli, sulle colline moreniche fino a Pinzano e Castelnuovo del Friuli, nella pedemontana pordenonese, comuni di Pocenino, Budoia e Caneva. Nessuna traccia neanche a livello di cepaio nelle zone di pianura. Oggi con Franca Merluzzi, che ci cura la rubrica dei giardini, parliamo del parco di Villa Revoltella Trieste. Nato come parco privato, è diventato pubblico grazie a un personaggio straordinario, il barone Pasquale Revoltella. Il parco fu realizzato da lui, il ricchissimo esponente della finanza triestina dell'Ottocento, Pasquale Revoltella. Il suo nome è legato a Trieste. Per sua volontà, infatti, tutto il patrimonio di cui disponeva passò al comune per il pubblico godimento. Oltre al sontuoso palazzo sulle rive, inaugurato nel 1859 e ora civico museo Revoltella, il barone volle per sé anche una residenza fuori città. Come sempre, pensò in grande. Il parco doveva suscitare l'ammirazione di influenti personaggi di sua conoscenza, ma soprattutto dell'arciduca Massimiliano d'Austria, che negli stessi anni stava costruendo il parco e il castello di Miramare. L'operazione non fu semplice. Re Voltella dovette acquistare i terreni in più lotti, poi cercare una sorgente d'acqua, quindi procedere con le opere per modellare i declivi brulli e pietrosi. In un decennio, comunque, portò a compimento l'intero contesto, con gli edifici, tra cui la chiesa, la casa del parroco, il villino per la sua villeggiatura e il grande parco, su più livelli, visitato perfino dall'arciduca d'Austria. Il barone, che morì nel 1869, 150 anni fa, nel testamento ha specificato che il parco di Villa Revoltella doveva rimanere aperto al pubblico. È stato così? Sì, la sua volontà è stata rispettata e i triestini frequentano tuttora il parco, alla cui manutenzione provvede il comune. Non tutto è rimasto come ai tempi del barone. La zona, un tempo adibita a orto, è diventata parco giochi, ma nella parte più alta si vedono piante secolari con esemplari di pino nero ed Aleppo ed altre conifere, querce e arbusti sempreverdi. Nella bella stagione rose e aiuole fiorite. Solamente una serra in ghisa e vetro è rimasta a ricordo delle ben quattro esistenti. Il barone amava coltivare piante esotiche, più volte premiate alle esposizioni triestine, tra cui i famosi ananassi con cui stupiva i suoi ospiti. Quando si giunge al villino si ha una veduta bellissima e noi, come il barone Revoltella, da lassù ammiriamo i pendii boscosi, la città e il mare, a volte fino alle coste croate. Sesta puntata con Sandro Menegon dedicata all'etame, ovvero alla letamazione che andava ad allietare i seminativi della pianura. Nonostante la lettiera più abbondante rispetto alla montagna, la scarsità del letame induceva anche in pianura a letamazioni localizzate. Basti pensare che anche le colture autunno-vernine si utilizzava questa pratica, che chiaramente non facilitava le operazioni di semina e di mietitura. Perché si semina ancora a colmiera? Il Friuli è uno dei pochissimi paesi dove il frumento si semina ancora in colmiera, commentavano i tecnici della cattedra ambulante dell'Associazione Agraria Friulana ancora nel 1916, su articoli pubblicati sull'Amico del Contadino. Le colture primaverili da rinnovo, generalmente rappresentate dal grano turco, venivano abbondantemente concimate. Si consigliavano 200-300 quintali etano, plein lagar, e il trasporto e lo smargimento in campo non erano operazione da poco. Basti pensare che in primavera, periodo generalmente piovoso, il letame imbevuto d'acqua era pesante e il suo caricamento forca sul carro diventava veramente faticoso, come lo scaricamento in mucchi e il conseguente spargimento sul terreno. Inoltre, spesso la precaria viabilità delle strade bianche e delle cararecce sottoponeva gli animali a sforzi notevoli, non da escludere l'impantanamento del carro, chiaramente più frequenti nei terreni argillo-limosi, dove le strette ruote affondavano come coltelli. E per quanto riguarda le colture arboree, i vigneti, i frutteti? Nel riempimento degli scassi, per l'impianto dei vigneti, il letame utilizzato in grande quantità aveva una sua precisa collocazione. Negli anni a seguire il letame veniva interrato sotto i filari e nei vigneti adulti la letamazione avveniva generalmente ad anni alterni. La messa a dimora delle giovani piantine prevedeva l'inzaffardatura dell'apparato radicale, ossia l'immersione delle radici in una miscela di acqua, terra e deiezioni bovine, al fine di dare immediato sostentamento nella fase di trapianto. C'erano altri utilizzi? Semenzaia forzatura, in questi casi si utilizzava letame fresco, preferibilmente quino, poiché la fermentazione innalzava la temperatura registrata superiore al letame stesso, terra comune e terriccio. Si distinguevano semenzaia a letto semicaldo, dove lo strato di letame non superava i 20 cm di spessore, e caldo con quantitativi superiori. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento con scambi attivi venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 15,80 e 16 euro il quintale IVA esclusa, la soia tra 33,33 e 30, l'orzo con peso specifico 60,63 tra 15,50 e 16 euro, il frumento tra 17,90 e 18,20. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 80 centesimi il quintale e la soia aumentata di 10 centesimi. Scambi moderati all'ortofrutticolo di Udine con prezzi in ribasso, l'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate all'ingrosso tra 90 centesimi e 1 euro il chilo, IVA esclusa, le zucchine tra 2 e 2,20, i peperoni gialli e rossi tra 1,30 e 1,50, le melanzane tonde tra 1 e 1,30, la scarola riccia tra 2,30 e 2,50, i pomodori italiani in grappolo tra 1,70 e 1,80, i finocchi tra 1,10 e 1,20, il radicchio rosso tondo tra 0,80 e 0,90, i cavoli tra 0,60 e 0,90, i kiwi tra 2 e 2,30, le mele fusi tra 1,50 e 1,80, le pere abate tra 1,80 e 2,40, l'uva tra 1,10 e 1,80, le clementine italiane tra 0,80 e 1,50, le arance tra 1 e 1,30 e le castagne tra 3,30 e 4,50. Infine, tendenze positive nel mercato degli avicunicoli, con i poli a terra pagati tra 1,06 e 1,08 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,56 e 1,58, le faraone tra 2,30 e 2,34, le anatre tra 2,45 e 2,49, le oche tra 4,80 e 5 euro, i conigli oltre 2 kg e mezzo quotati dal CUM di Verona tra 2,65 e 2,71, mentre il prezzo delle uova oltre 73 grammi è di 13,80 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer Livio Stefanutto sentiamo cosa ci riserverà il meteo nella settimana entrante. Il fronte che ha interessato venerdì la nostra regione ha portato fino a 270 mm di pioggia in montagna e tra 50 e 80 in pianura. Dopo la pausa di ieri, da stanotte ha ricominciato a piovere. Infatti una saccatura sul Mediterraneo occidentale ha richiamato forti correnti umide meridionali dall'Africa e un intenso sistema frontale sta interessando la regione, accompagnato da correnti sciroccali. Prima di stasera possiamo aspettarci piogge diffuse, anche temporalesche, molto intense sulle tre Alpi Carniche e in Carnia, forse localmente anche in pianura, forse nevicate in montagna, oltre 2.000 sulle tre Alpi, oltre 1.600 sulle Alpi. Sulla costa sarà scirocco sostenuto e la pressione atmosferica è nuovamente favorevole all'acqua alta e alle mareggiate. Da stasera le precipitazioni si attenueranno e il vento poi girerà a libeccio. Lunedì avremo un relativo miglioramento del tempo con cielo variabile e solo qualche isolata e breve pioggia. Di notte, possibile nebbia in pianura e nelle valli. Dalla sera di domani, nuovo peggioramento per un altro fronte che ci interesserà nella giornata di martedì, con precipitazioni intense sui monti, sulla pedemontana, abbondanti sul filone costa, anche temporalesche. Nevicherà oltre gli 800.000 sulle Alpi e oltre i 2.500 sulle Prealpi. Quote in rialzo nel corso della giornata con oscillazioni. La costa soffrirà vento da est, da sud-est moderato. Mercoledì altra pausa, con variabilità e senza precipitazioni significative. In seguito, per il resto della settimana, il tempo dovrebbe stabilizzarsi con giornate più soleggiate e scarsa probabilità di pioggia. Le temperature in pianura rimarranno tra i 5 e i 15 gradi. Considerata la dinamica di questi frequenti passaggi perturbati, consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti. Termina qui la puntata odierna. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano della settimana. Sal svinte il dì di San Gregorio, par quarante dì sal tocchi e cori. Ovvero, se tira vento il giorno di San Gregorio, oggi 17 novembre, per 40 giorni bisogna correre. In senso lato avremo vento per altri 40 giorni. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Sebastiano Franco e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.